Questo è il secondo anno che abbiamo questa campagna che come sindacato USB stiamo conducendo insieme alla rete Iside, che è una onlus specializzata sulle questioni della salute e della sicurezza del lavoro. Anche l'anno scorso avevamo avuto troppe vittime, quest'anno abbiamo già avuto diversi morti e collassi per il caldo, che ormai non ha nulla di eccezionale, però il problema non sono soltanto le morti per il caldo, perché il caldo rappresenta un elemento di pericolo e di rischio in tutti i posti di lavoro, perché aumenta la possibilità di infortuni, di malori, e quindi diventa importante che venga, diciamo, trasferito da quello che è comunque un diritto che esiste già sulla carta, quello di lavorare in condizioni che consentano appunto di evitare sia il freddo estremo che il caldo estremo. In Italia ci sono delle normative che non vengono applicate, tra l'altro negli altri paesi ci sono normative anche più stringenti. Faccio l'esempio del discorso che già attualmente il testo unico sulla salute e sicurezza prevede che con temperature che si avvicinano ai 34-35 gradi ci possa essere lo stop, tra l'altro coperto dalla cassa integrazione, però ecco, non è che le aziende automaticamente facciano questo tipo di operazione e mettano i lavoratori in cassa integrazione quando c'è il caldo estremo. E tra l'altro un altro problema è che ci sono particolari lavorazioni, pensiamo a chi lavora sulla strada, in agricoltura, in edilizia, che con temperature anche inferiori 34-35 gradi ovviamente rischiano di collassare, o comunque anche il normale lavoro diventa sempre più rischioso per la salute e gli incidenti possono ovviamente aumentare. Quindi è importante fare una campagna di informazione tra le lavoratrici e i lavoratori, perché è un diritto sapere che sia col freddo estremo sia con questo caldo lavorare è un pericolo, è un rischio, e che quindi bisogna tutelarsi e organizzarsi perché non ciò non avvenga. Quindi abbiamo avuto degli episodi drammatici, però ecco, c'è anche una drammatica normalità di questa condizione che stiamo cercando di affrontare, almeno nei posti di lavoro in cui noi siamo presenti, dalla logistica all'agricoltura e all'industria. Pensiamo ai capannoni che non vengono refrigerati, pensiamo a tutto quello che significa lavorare in agricoltura sotto il sole. Sappiamo benissimo che le vittime e anche i malori sono tantissimi. Citavi esempi di altri paesi dove ad esempio sono stati spostati gli orari di lavoro proprio per evitare le ore più calde. Sì, spostati con l'inizio di prima mattina per finire al massimo alle 13, oppure appunto con altri paesi che hanno normative dove già a 30 gradi si può sospendere il lavoro. Insomma, è chiaro che queste cose qua in Italia non ci sono, bisognerebbe anche l'Italia fare una e prendere dei provvedimenti normativi che consentano la riduzione dell'ora di lavoro in orari dove evitare il massimo della calura, e soprattutto attrezzare gli ambienti di lavoro con i giusti mezzi per refrigerare e garantire i lavoratori. Tra l'altro appunto anche in alcuni casi manca la fornitura di acqua, insomma, e ci sono tantissimi casi che veramente meriterebbero un intervento sia normativo e non solo sindacale. Questo a proposito, ma più in generale, il problema degli incidenti, dei morti sul lavoro, voi volete introdurre il reato di omicidio? Sì, una nuova normativa che vada a introdurre il reato, a istituire il reato di omicidio sul lavoro, perché pensiamo che attualmente ci sia ancora troppa timidezza nell'affrontare il problema dell'aumento dei morti sul lavoro, così come l'aumento delle malattie professionali in Italia. Abbiamo dei record tristissimi anche in Emilia Romagna. L'INAIL spesso dà dei dati che dovrebbero spingere il Parlamento sicuramente e le forze politiche a incrementare le misure e le normative sulla salute e sicurezza. Questo non sta avvenendo, anzi si è andato anche verso quella che chiamano loro semplificazione, che molto spesso significa lasciar fare ai datori di lavoro quello che vogliono. Ecco, invito tra l'altro gli ascoltatori a aderire alla campagna della raccolta di firme sulla legge di iniziativa popolare, appunto per l'introduzione di queste nuove norme sulla salute e sicurezza.